Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Quella non era la bocca di Seth. Chi non la conosceva bene, o magari chi l'aveva appena scorta attraverso lo spioncino del ristorante, poteva pensare fosse la sua. Ma Paul D sapeva bene che non era così. Oh, beh, c'era qualcosa attorno alla fronte, una certa pacatezza, qualcosa che poteva far pensare a lei, questo sì. Però mai e poi mai si poteva scambiare quella bocca per la sua. E lui lo disse. Lo disse a Stampede, il quale lo stava osservando attentamente. «Non ti so dire. A me non pare lei. Conosco la bocca di Seth e questa non è la sua». Lisciò il ritaglio di giornale con le dita e lo studiò attento, per nulla turbato. A giudicare dall'aria solenne con cui Stamp aveva spiegato il foglio, dall'amorevolezza con cui le dita del vecchio avevano carezzato le grinze, con cui le avevano lisciate, prima sulle ginocchia, poi in cima ai pali scheggiati dello steccato, Paul D sapeva che la cosa avrebbe dovuto sconvolgerlo. Qualunque cosa vi fosse scritta, l'avrebbe scosso. «Io la conoscevo da prima, dai tempi del Kentucky, quando era ancora una ragazza. Non l'ho conosciuta solo qualche mese fa, la conosco da tanto tempo e te lo posso dire per certo, questa non è la sua bocca. Forse può sembrare la sua, ma non è la sua». Così Stampede non gli raccontò tutto. Sospirò invece, protendendosi verso quella bocca che non era la sua, e lesse lentamente, ad alta voce, le parole che Paul D non poteva leggere. E quando ebbe terminato, Paul D disse con rinnovato vigore: «Mi dispiace, Stamp. Ci deve essere qualche errore, perché quella non è la sua bocca». Stamp lo guardò negli occhi e la soave certezza che vi lesse gli fece quasi dubitare che 18 anni prima tutto quello fosse davvero successo. Che mentre lui e Baby Sachs guardavano dalla parte sbagliata, una bella, piccola schiava, avendo riconosciuto un certo cappello, fosse corsa verso la baracca per uccidere i propri figli. Seth girava, girava, girava in tondo per la stanza. Paul D sedeva al tavolo e la vedeva ora apparire, ora sparire alle sue spalle, girando come una ruota, in modo lento ma costante. Qualche volta teneva le mani incrociate dietro la schiena. Altre volte si teneva le orecchie, si copriva la bocca o incrociava le braccia davanti al seno. Ogni tanto, mentre si voltava, si grattava i fianchi, però la ruota non si fermava mai e a Paul D girava la testa. Dapprima pensò fosse quel suo continuo vorticare. Gli girava attorno, così come girava attorno all'argomento, sempre in tondo, senza mai cambiare direzione, il che avrebbe potuto essere di sollievo alla sua testa. Aveva afferrato solo qualche frammento di quel che lei diceva, il che andava benissimo, poiché non era ancora arrivata alla parte più importante, la risposta alla domanda che non le aveva posto direttamente, ma che era custodita nel ritaglio che le aveva mostrato e anche nel suo sorriso. Perché quando Paul D le aveva mostrato il ritaglio di giornale, sorrideva. Così, quando Seth fosse scoppiata a ridere a quella storia buffa, la confusione nata dal suo volto messo lì, dove avrebbe dovuto esserci quello di qualche altra donna di colore, beh, sarebbe stato pronto a unirsi alla sua risata. «Ne vuoi sapere una?» le avrebbe chiesto. E lei gli avrebbe risposto soffocando le risate: «Stamp è impazzito del tutto, impazzito!» Ma il sorriso di Paul D non ebbe mai l'opportunità di trasformarsi in una risata. Restò lì, appeso alle labbra, timido e solo, mentre lei esaminava il ritaglio e glielo restituiva. Forse fu per quel sorriso, o forse per quell'amore sempre disponibile che lei intravide nei suoi occhi, così manifesto e indulgente. Proprio il modo in cui i giovincelli, gli evangelisti e i bambini osservano qualcuno, con l'amore che uno non merita, che si convinse a parlare e a raccontargli quanto non aveva detto neanche a Baby Sachs, l'unica persona alla quale si sentiva in dovere di spiegare tutto. «Non c'è bisogno di dirti di Sweet Home. Che cosa è stata? Ma forse tu non sai che cosa ha voluto dire per me andar via di lì». Coprendosi la parte inferiore del volto con le mani, Seth si fermò un attimo a ripensare all'enormità di quel miracolo, al suo aroma. «Sono stata io. Io che li ho portati tutti via da lì, anche senza Hall. Fino a quel momento non avevo mai fatto niente da sola. Ho deciso. E alla fine è andata bene, proprio come doveva andare. Eravamo qui, tutti quanti i miei figli, e anch'io. Li ho messi al mondo. Li ho tirati fuori da lì e non è stato per caso. Sono stata io. M'hanno aiutata, certo. M'hanno aiutata un sacco, però sono stata sempre io. Io che mi dicevo avanti. Io che mi dicevo forza. Io che dovevo stare in guardia. Io che usavo la mia testa. Ma non era solo quello. Era un egoismo che prima non conoscevo. Mi piaceva. Mi piaceva e mi sembrava giusto. Io ero grande, Poldi, e alta e larga. E quando spalancavo le braccia potevano starci dentro tutti i miei figli. Ero grande così. Sembrava che gli volessi più bene dopo essere arrivata qui. O forse nel Kentucky non potevo volergli bene come si doveva perché non erano miei. Ma quando sono arrivata qui, potevo amare chi mi pareva. Sai che cosa voglio dire? Il frastuono nella testa non impedì a Paul D. di notare il tono carezzevole di Seth. Si rese conto che quanto voleva per i suoi figli era esattamente ciò che mancava al 124. La sicurezza. Era stata quella la primissima impressione che aveva avuto il giorno in cui aveva varcato la soglia. Lui pensava di averla resa sicura, di aver eliminato ogni pericolo, di aver sbattuto via da lì ogni porcheria immaginabile, di aver ripulito quel posto e mostrato a se stesso e a chiunque altro la differenza tra un bue e un aratro. E dato che Seth non l'aveva fatto da sé prima che arrivasse lui, pensava che non ne fosse stata capace, che si fosse rassegnata a convivere con il 124, impotente, poiché non aveva scelta, che senza il marito, i figli, la suocera, lei e quella figlia ritardata dovevano vivere lì da sole, cavandosela alla meno peggio. La ragazza dal carattere scontroso, dallo sguardo cattivo di Sweet Home, che lui aveva conosciuto come la ragazza di Hall, era obbediente come Hall, timida come Hall e amante del lavoro come Hall. Si sbagliava. Questa Seth era diversa. Il fantasma in casa non la preoccupava più di tanto, per la stessa ragione per cui aveva accolto una strega con delle scarpe nuove, tenendola a vitto e alloggio. Questa Seth parlava d'amore, come una donna qualunque. Parlava dei vestiti dei bambini come una donna qualunque, ma quello che intendeva realmente poteva spaccare le ossa. Questa Seth parlava di sicurezza con una sega. Questa Seth non sapeva dove finiva il mondo e dove iniziava lei. All'improvviso capì quel che Stamp Paid voleva che capisse. Ancora più importante di ciò che Seth aveva fatto era ciò che affermava. La cosa gli faceva paura. «Il tuo amore è troppo grande», disse pensando. «Quella troia è lì che mi guarda? È proprio sopra la testa che mi sbircia attraverso il pavimento». «Troppo grande?» disse lei, pensando alla radura dove gli ordini di Baby Sachs facevano cader giù i ricci dagli ippocastani. «L'amore o c'è o non c'è. L'amore piccolo non è amore per niente». «Già, non ha funzionato, vero? Ha funzionato, forse?» chiese lui. «Sì che ha funzionato», rispose Seth. «E come? I tuoi figli se ne sono andati e non sai nemmeno dove sono. Una bambina morta, l'altra che non va più in là del cortile. Come fai a dire che ha funzionato? Non sono a Sweet Home. Il maestro non li ha avuti. Forse c'è qualcosa che è ancora peggio di quello. Non mi interessa sapere che cosa è peggio e che cosa è meglio. Mi interessa sapere che cos'è e tenerli lontano da quello che so che è tremendo. Io l'ho fatto. Quello che hai fatto era sbagliato, Seth. Che cosa dovevo fare? Tornare là, forse? Riportare là i miei bambini? Ci doveva essere un modo, un altro modo. Quale? Tu hai due piedi, Seth, non quattro zampe, disse. E proprio in quel momento spuntò tra loro una foresta, silenziosa e inviolata. Paul D. si chiese poi perché l'avesse detto. I vitelli della sua gioventù? Oppure era stata la convinzione di essere osservato attraverso il soffitto? Come aveva fatto in fretta a passare dalla propria vergogna a quella di lei, dal segreto della ghiacciaia al suo amore troppo grande. Nel frattempo, la foresta stabiliva la distanza fra loro, dandole forma e spessore. Aspettò a calcarsi il cappello in testa. Prima se lo rigirò fra le dita, pensando a come andar via, a come farla sembrare un'uscita e non una fuga. Ed era molto importante non andar via senza prima aver guardato. Si alzò, si voltò e guardò in alto, verso le scale bianche. Lei era proprio lì. Se ne stava dritta come un palo e gli voltava la schiena. Non si affrettò a raggiungere la porta. Avanzò adagio e una volta arrivato alla porta l'aprì prima di chiedere a Seth di mettergli la cena da parte, perché avrebbe fatto un po' tardi. Solo allora si mise il cappello. Gentile da parte sua, pensò Seth. Deve pensare che non avrei retto a sentirglielo dire, che dopo tutto quello che gli ho detto, dopo che mi ha detto quanti piedi ho, un addio m'avrebbe fatto a pezzi. Non è gentile da parte sua. Addio, sussurrò lei dall'altra estremità della foresta. C'era rumore al 124. Stampede poteva sentirlo fin dalla strada. Camminava in direzione della casa, tenendo il capo il più eretto possibile, così, vedendolo, nessuno avrebbe potuto dire che era un codardo, anche se la sua anima inquieta lo faceva sentire tale. Da quando aveva mostrato quel ritaglio di giornale a Paul D. e aveva saputo che lui se n'era andato dal 124 quel giorno stesso, Stamp si sentiva a disagio. Dopo aver lottato con se stesso per decidere se era giusto dire o non dire a un uomo la verità sulla sua donna, e dopo essersi convinto che doveva farlo, aveva cominciato a preoccuparsi per Seth. Le aveva precluso l'unica possibilità di essere felice con un brav'uomo? Era afflitta per quella perdita? Per il riaffacciarsi gratuito e non richiesto del pettegolezzo causati dall'uomo che l'aveva aiutata ad attraversare il fiume e che era amico suo, così come di Baby Sachs? Sono troppo vecchio, pensò, per avere le idee chiare. Sono troppo vecchio e ho visto troppo. In che modo una notizia che era stata sui giornali poteva diventare un segreto da dover essere sussurrato nel recinto del macello dei porci? A chi doveva celare il segreto? A Seth, ecco a chi. Lui l'aveva colpita alla schiena furtivamente, come un codardo. Ma agire furtivamente era il suo mestiere, la sua vita. Anche se per un motivo sacro e ben definito, prima della guerra di secessione non faceva altro portare furtivamente i fuggiaschi nei nascondigli e le informazioni segrete nei posti pubblici. Ora il 124... era ritornato a essere quello di prima della venuta di Paul D. in città, angustiando Seth e Denver con quella sua masnada di fantasmi che Stamp sentiva fin dalla strada. Anche se Seth sapeva affrontare il ritorno dello spirito, Stamp non credeva che la figlia potesse fare altrettanto. Denver aveva bisogno di avere accanto una persona normale. La sorte aveva voluto che lui assistesse alla sua nascita, prima ancora che Denver sapesse di essere viva. E questo gliela faceva amare in modo particolare. Vederla viva, chissà come, e apparentemente in buona salute dopo 4 settimane gli aveva fatto così piacere che aveva raccolto le more migliori della contea e gliene aveva subito ficcate 2 in bocca prima ancora di offrire l'arduo raccolto a Baby Sachs. Era tuttora convinto che fossero le sue more, le quali avevano poi dato vita al banchetto e al taglio della legna, il motivo per cui Denver era ancora viva. Non fosse stato lì, in quel momento, a spaccar legna, Seth le avrebbe fatto spargere le cervella su tutte le assi del capanno. Forse avrebbe dovuto pensare a Denver, se non a Seth, prima di dare a Paul D quelle informazioni che lo avevano fatto scappare. L'unica persona normale nella vita della ragazza dopo la morte di Baby Sachs. E proprio lì era conficcata la spina. Le sue affermazioni oltraggiose, la sua autosufficienza lo imponevano, e Stan Pade, il quale da adulto non era stato sfiorato dal minimo accenno di cattiveria, quando aveva mostrato il ritaglio a Paul D, non aveva tenuto in considerazione i sentimenti di Seth o i bisogni di Denver. Non aveva la minima idea di quello che avrebbe detto o fatto quando Seth avesse aperto la porta, se l'avesse aperta, e posato lo sguardo su di lui. Era disposto a offrirle aiuto, casomai avesse voluto accettarlo da lui, o a subire la sua rabbia, casomai ne avesse covata contro di lui. A parte quello, si fidava del proprio istinto per raddrizzare gli eventuali torti che aveva potuto compiere nei confronti dei parenti di Baby Sachs e affinché lo guidasse verso e dentro il 124, sempre più popolato di fantasmi, come si poteva dedurre dalle voci che sentiva dalla strada. Mentre si avvicinava alla veranda, non riusciva a capire quel che sentiva. Prima, in Bluestone Road, gli era parso di udire uno scoppio improvviso di voci arrabbiate, forti, incalzanti, che strepitavano tutte insieme, così non era riuscito a capire di che cosa parlassero o a chi. Non è che il discorso fosse propriamente senza senso o ricordasse il linguaggio estatico, però qualcosa non andava nell'ordine delle parole e lui non riusciva a capirlo né a decifrarlo per potersi proteggere. L'unica cosa che riusciva a capire era la parola mia. Il resto andava al di là delle sue capacità di comprensione, eppure continuò ad avanzare lo stesso. Quando raggiunse gli scalini, le voci scemarono improvvisamente e divennero meno d'un bisbiglio. Quell'eterna conversazione privata che si svolge tra le donne è il proprio lavoro. Stan Pade alzò il pugno per bussare a quella porta alla quale non aveva mai bussato perché per lui era sempre aperta. E non ci riuscì. Dispensarlo da quella formalità era l'unica ricompensa che si aspettava dalla gente di colore che gli era debitrice di qualcosa. Una volta che Stan Pade aveva dato una giacca a qualcuno, gli aveva recapitato un messaggio, gli aveva salvato la vita o aggiustato la cisterna, si prendeva la libertà di entrare in casa come se fosse casa sua. Ci riprovò più volte. Si convinceva che doveva andare a trovare Seth, penetrare quelle voci forti e irritate fino a che non si fossero trasformate in un mormorio, ma poi si fermava, cercando di immaginare che cosa fare una volta arrivato alla porta. Per 6 volte, per altrettanti giorni, aveva abbandonato il suo percorso abituale e cercato di bussare al 124. Ma la freddezza di quel gesto, il segno che era davvero come un estraneo alla porta, era più forte di lui. Mentre Stan Pade si decideva a fare visita al 124 per amore di Baby Sachs, Seth cercava di seguire il consiglio della vecchia. Mettere giù tutto, spada e scudo. Cercava di riconoscere non solo la validità di quel consiglio, ma anche di seguirlo realmente. 4 giorni dopo che Paul D le aveva ricordato quanti piedi avesse, Seth si mise a rovistare tra le scarpe lasciate dagli ospiti di passaggio, alla ricerca dei pattini per il ghiaccio che era sicura fossero lì. Scavando nel mucchio, si disprezzava per essere stata così fiduciosa, così pronta a cedere vicino alla stufa, quando Paul D le aveva baciato la schiena. Avrebbe dovuto saperlo che si sarebbe comportato come tutti gli altri in città, una volta che avesse saputo. I 28 giorni in cui aveva avuto delle amiche, una suocera e tutti i figli riuniti, in cui s'era sentita parte di un vicinato, anzi per la prima volta aveva un vicinato che sentiva come suo, tutto quello era scomparso da tempo e non sarebbe mai tornato. Niente più danze alla radura, né bisbocce. Niente più sospiri per un nuovo tradimento, né applausi per una vittoria di poco conto. Ogni 18 o 20 anni la sua vita, invivibile, era interrotta da una gloria di breve durata. Beh, se era così, era così. Se ne stava inginocchiata da un po' a sfregare il pavimento. Denver che le dava dietro con gli stracci per asciugare, quando apparve Beloved dicendo «E questi a che cosa servono?» In ginocchio, con la spazzola dura in mano, guardò la ragazza e i pattini che le stava mostrando. Seth non sapeva pattinare neanche vagamente, però decise lì, in quell'istante, di seguire il consiglio di Baby Sacks. «Metti giù tutto!» Lasciò il secchio dov'era. Disse a Denver di tirar fuori gli scialli e cominciò a cercare gli altri pattini che era certa si trovassero in quel mucchio da qualche parte. Chiunque fosse dispiaciuto per lei, chiunque fosse passato da quelle parti per dare un'occhiata e vedere come se la cavava, compreso Paul D., avrebbe scoperto che quella donna, immersa nelle cianfrusaglie per la terza volta, poiché amava i suoi figli, quella donna veleggiava allegramente su un fiume gelato. Presa dalla foga, buttando incurante le scarpe all'aria, trovò infine una lama, quella d'una scarpa da uomo. «Beh», disse, «possiamo fare a turno. Due lame su un paio, una lama sull'altro e le scarpe per la terza». A vederle cadere non c'era nessuno. Tenendosi per mano, stringendosi l'una all'altra, volteggiavano sul ghiaccio. Beloved portava il paio di scarpe con le lame. Denver aveva la lama spaiata e si appoggiava all'altro piede per scivolare sul ghiaccio infido. Seth pensava che le sue scarpe l'avrebbero sostenuta e le avrebbero impedito di cadere. Si sbagliava. Due passi sul ruscello gelato e perse l'equilibrio atterrando sul di dietro. Le ragazze, ridendo a più non posso, la imitarono cadendo sul ghiaccio. Ognuna di loro sembrava voler aiutare l'altra a stare in piedi, eppure ogni ruzzolone non faceva che raddoppiare la loro gioia. A vederle cadere non c'era nessuno. Infine, esauste, si distesero sulla schiena per riprendere fiato. Il cielo sopra di loro era un altro mondo. Le stelle invernali, talmente vicine da dare l'impressione di poterle toccare, erano spuntate prima del tramonto. Per un momento, alzando lo sguardo, Seth si addentrò nella pace perfetta che offrivano. Poi Denver si tirò su e si mise a pattinare da sola per un po'. L'estremità del suo unico pattino batté contro una gibbosità del ghiaccio e mentre cadeva agitò le braccia in modo così incontrollato e disperato che tutte e tre, Seth, Beloved e la stessa Denver, risero a più non posso fino a tossire. Seth si tirò su, appoggiandosi sulle mani e sulle ginocchia, il petto ancora scosso dalle risate che le inumidivano gli occhi. Restò così per un po', a quattro zampe. Ma se le risate svanirono, le lacrime no. E passò un po' di tempo prima che Beloved o Denver si rendessero conto della differenza. Quando capirono, le toccarono delicatamente la spalla. Arrivate a casa, scoprirono di avere freddo, si tolsero le scarpe, le calze bagnate e si misero quelle asciutte di lana. «Potremmo arrostire delle patate», disse Denver. «Domani», rispose Seth, «è ora di andare a letto». Versò a tutte e due un altro po' di latte caldo zuccherato. Il fuoco della cucina rugghiava. «Hai finito con gli occhi?» chiese Beloved. Seth sorrise. «Sì, ho finito con gli occhi. Bevilo tutto. È ora di andare a dormire». Ma nessuna di loro voleva lasciare il tepore delle coperte, del fuoco e delle tazze per il gelo di un letto non riscaldato. Continuarono a sorseggiare il latte e a osservare il fuoco. Quando sentì quel suono, come uno scatto secco, Seth non sapeva che cosa fosse. Dopo le fu chiaro come il sole che quel click era stato proprio all'inizio, quasi una battuta, prima di cominciare, prima che Seth sentisse tre note, prima ancora che la melodia si dipanasse. China leggermente in avanti, Beloved stava canticchiando piano. Fu allora, Quando Beloved finì di cantare, Cassette si ricordò di quel click. Il rumore dei pezzi che andavano al loro posto, il posto per cui erano stati espressamente pensati e costruiti. Non versò il latte perché la mano non le tremava. Voltò solo il capo e osservò il profilo di Beloved. Il mento, la bocca, il naso, la fronte, riprodotti e ingigantiti nell'ombra enorme che il fuoco proiettava sul muro alle sue spalle. «Tutto quello che mi ricordo», aveva detto Baby Sachs, «è quanto le piaceva il pane bruciacchiato. Le sue manine, non le riconoscerei nemmeno se mi dessero uno schiaffo. Il neo, né il colore delle gengive, né la forma delle orecchie, né... Qua, guarda qua, questa è la tua signora. Se non mi riconosci dalla faccia, guarda qua. Le dita, né le unghie, nemmeno... Ma c'era tempo ormai. Il click aveva fatto click. Le cose erano al loro posto o già in assetto, pronte a scivolar dentro, silenziose. «L'ho fatta io quella canzone», disse Seth. «L'ho fatta io e la cantavo ai miei bambini. Quella canzone non la conosce nessun altro. Solo io e i miei bambini». Beloved si voltò a guardarla. «Io la conosco», disse. Nella sua voce non c'era alcun segno di tremore quando disse loro di tenere acceso il fuoco e se no di andare di sopra. Fatto ciò, si raccolse la coperta attorno ai gomiti e, simile a una sposa, salì le scale bianche come un giglio. Fuori la neve si induriva, assumendo forme eleganti. La pace delle stelle invernali sembrava eterna. Maria Paiato ha letto Amatissima di Toni Morrison, traduzione di Giuseppe Natale. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.